All'infitar, lo squarciarsi. Bismillahirrahmanirrahim. In nome di Allah, il compassionevole e il misericordioso. Idha as-samaa'u fatarat. Quando il cielo si squarcerà. Wa idha al-kawakibu intatharat. E saranno dispersi gli astri. Wa idha al-biharu fujjirat. E confonderanno le loro acque i mari. Wa idha al-quburu bu'thirat. E saranno sconvolti i sepolcri. Alimat nafsum ma qaddamat wa akhkharat. Ogni anima conoscerà quel che avrà fatto e quel che avrà trascurato. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. O uomo, cosa mai ti ha ingannato circa il tuo nobile Signore? Alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Che ti ha creato, plasmato e ti ha dato armonia. Fi ayyi suratin ma sha'a rakkabak. E che ti ha formato nel modo che ha voluto. Kalla bal tukazzibuna bid-din. No, voi tacciate di menzogna al giudizio. Wa inna 'alaykum lahafidhin. Nonostante veglino su di voi dei custodi. Kiraman katibin. Nobili scribi. Ya'lamuna ma taf'alun. Ben consci di quello che fate. Innal abrara lafi na'im. In verità i giusti saranno nella delizia. Wa innal fujjara lafi jahim. E in verità i peccatori nella fornace. Yaslawnaha yawmaddin. In cui precipiteranno nel giorno del giudizio. Wa ma hum anha bighaibin. Senza potervi sfuggire. Wa ma adraka ma yawmuddin. Chi mai ti farà comprendere cos'è il giorno del giudizio? Thumma ma adraka ma yawmuddin. E ancora, chi mai ti farà comprendere cos'è il giorno del giudizio? Yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a. Wal-amru yawma'idhin lillah. Il giorno in cui nessun'anima potrà giovare ad un'altra anima in alcunché, in quel giorno tutto il potere apparterrà ad Allah.